Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Eccoci qua nuovamente in diretta. Ho voluto lasciare spazio alla nostra sigla per motivi tecnici, ma anche per puntualità. 8:00 e 15 secondi, inizia la settimana, inizia con i magazine e uno spazio di approfondimento dedicato al teatro, con un'anticipazione e una recensione. Iniziamo da quello che sarà invece con una sintesi di quello che ne è nella stagione 2024-2025. Per il teatro Celebrazioni, stagione di prosa e danza. Nel logo l'importanza e l'attenzione per la nostra città, almeno ho intuito questo aggiungendo, oltre che la tipica C di Celebrazioni, questi portici che sono icona e patrimonio, come ben sappiamo. Attualità, teatro dell'assurdo, giochi di potere, conflitti amorosi, rievocazioni personali, ma anche storie autentiche, teatro canzone, avvenimenti, uomini del passato, commedia, memorie, ritratti di personaggi fantastici e mitologici. Tematiche toccate da 14 titoli della stagione di prosa per il 2024 e 2025 al Celebrazioni. Beh, non solo, aggiungiamo anche una grande accoglienza, una grande ospitalità e disponibilità. Ringrazio l'ufficio stampa e l'organizzazione per quanto riguarda il Celebrazioni, che ha permesso questa conversazione, che ha dato il via non solamente a una giornata di incontro e di cultura, ma anche ai nostri magazine. Iniziamo quindi il nostro viaggio nei magazine di oggi, lunedì 17 giugno, anticipando la stagione teatrale 2024 e 2025 con il direttore artistico Filippo Vernassa. Il Celebrazioni, siamo con il direttore artistico Filippo Vernassa, è un'anticipazione, ma a proposito di anticipazione io direi di iniziare con una breve sintesi a proposito della stagione trascorsa. La stagione trascorsa è stata una stagione straordinaria per noi, che consolida 2 anni di ripresa dalla pandemia molto buoni. Un'attenzione incredibile, un entusiasmo incredibile da parte del pubblico, degli spettatori di Bologna e non solo. Celebrazioni oggi è un punto di riferimento sicuramente per la città e nel tessuto culturale cittadino, ma è anche un punto di riferimento a livello regionale. Tra i teatri più frequentati della città e sicuramente tra quelli più frequentati della regione, l'anno scorso sono state 110.000 gli spettatori, un numero importantissimo che conferma insomma l'attenzione per la programmazione e soprattutto insomma per l'accoglienza. Il Celebrazioni è diventato una casa fondamentalmente, questo per gli artisti, per le produzioni, ma anche per il pubblico. E quindi non ci si ferma mai, già diamo uno sguardo al 24-25. Abbiamo terminato poche settimane fa con lo spettacolo di Max Sangioni, che ha concluso la stagione passata, 3 settimane per, diciamo così, per il cambio di abito, diciamo in versione teatrale, e oggi presentiamo la stagione di prosa e, unitamente alla stagione di prosa, la stagione di danza contemporanea. Lo facciamo nel miglior modo possibile attraverso, diciamo, i linguaggi creativi, le idee di teatro contemporaneo che Celebrazioni, nella connotazione, nella vocazione artistica di questo teatro, lo facciamo insieme ai grandi artisti del teatro, del cinema e della televisione. Ne citiamo solo alcuni, poi sarete voi a declinarli nel miglior modo possibile, e invitiamo anche gli spettatori a curiosare sul nostro sito teatrocelebrazioni.it. lo faremo insieme a Le Dix in uno spettacolo su Gaber, in questo spettacolo celebrativo su Gaber. Lo faremo insieme a Drusilla Foer, amica del Teatro Celebrazioni da sempre. Lo faremo con una bellissima commedia con Luca Bizzarri e Francesco Montanari. Sarà poi la volta di Stefano Massini, che affronterà un testo molto importante, molto impegnativo, attraverso uno spettacolo di teatro e musica sul Mein Kampf di Hitler. Lo faremo nella commedia dell'assurdo, del teatro dell'assurdo, insieme al duo comico, una commedia Esilaranto, è quello che viene definito uno scherzo teatrale, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, insomma, e tanti altri artisti. E poi, come ti dicevo prima, insieme alla danza contemporanea, grandi compagnie internazionali e grandi compagnie italiane che, diciamo, snodano nel percorso della danza moderna anche acrobazia, giochi di illusione, quindi David Parsons Dance Company, Cataclaw, torneranno in Italia la compagnia francese Farfadet, tanti altri appuntamenti che accompagneranno, insomma, in questa prima fase dell'anno, insomma, il nostro pubblico, che ci auguriamo ci voglia seguire sempre con attenzione ed entusiasmo. Intersezioni con altre collaborazioni di cartelloni? Il teatro ha delle collaborazioni in essere, non vogliamo spoilerare le anticipazioni. C'è una collaborazione che persiste col Bologna Jazz Festival, col concerto di Mulato Astaché. Poi ci saranno, ma queste le presenteremo a settembre, altre collaborazioni con associazioni importanti musicali del territorio. Beh, da grande appassionato di jazz volevo appunto questa anticipazione. Hai lanciato questo assist. Okay. Forza Bologna. Grazie Filippo. Grazie a voi, ciao. Modo di seguire il palcoscenico Il Celebrazioni per la stagione Ventura. Quindi direi che è il momento anche di una recensione per quanto riguarda il teatro, perché quello che è stato l'inizio della rassegna La Montagna Incantata e Paradox per Archivio Z ha dato veramente motivo di grande emozione, coinvolgimento in un aspetto olistico di struttura teatrale veramente di spessore molto molto elevato. Di questo ne parlerò a breve. Ho avuto la possibilità di ammirare, perché la parola giusta, di essere anch'io incantato come questa montagna in un percorso, in un vortice di totale emozione. Ne parlerò dopo Giaga Jazzist, perché ovviamente vi sono nuovamente possibilità di assistere a questo spettacolo, che più che spettacolo è qualcosa che va oltre. Quindi non solo complimenti, perché è riduttivo al progetto Archivio Z che ho presentato venerdì scorso grazie alla disponibilità di Gianluca Guidotti ed Enrica San Giovanni, ma anche di una compagnia veramente strutturata in maniera magistrale. Bene, darò una brevissima recensione dopo il brano dei Giaga Jazzist. A tra poco. Thank you. tutto questo brano dei Jaga Jazzist tratto dal loro singolo, perché dà colonna sonora anche alle immagini, le visioni concrete, i percorsi, gli aspetti che incantano: montagna incantata, vista Paradox, archivio Z, Bologna città stupenda, poi da qualche anno con una svolta culturale importante, riapre alcuni luoghi che diventano teatri e palcoscenici incredibilmente belli, come può essere il chiostro ottagonale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, anche la parte di sala, di studio, di approfondimento, di palcoscenico che diventa un legame tra la scienza e la letteratura tenuta assieme dal contesto teatrale, da una narrazione che ha ispirazione dal capolavoro La montagna incantata, ma che va oltre con un'originalità unica e speciale. Non svelo nulla ovviamente, ma vi invito caldamente, sono due ore di spettacolo che in maniera olistica, cioè totale, vi saprà coinvolgere, un aspetto attoriale di un livello molto elevato, una struttura teatrale oltre che di approccio d'avanguardia anche allo stesso tempo coinvolgente, non si lascia un millimetro l'attenzione, perché riportare tutto quello che è nella vita, tra le difficoltà, tra la vita, l'amore, la morte, l'emozione, l'aspetto di bellezza artistica all'interno di questo palcoscenico, sicuramente non mi tirate degli accidenti, perché ho caldeggiato e vi ho invitato a teatro in una bellezza sia artistica che di contesto di palcoscenico veramente unica e speciale. Unica cosa, non chiedetemi date, appuntamenti. Beh, potete consultare, voi lo sapete fare molto meglio di me, tutte le piattaforme, le possibilità, i luoghi, le date, però vi posso dire che oltre che la bellezza di questo posto, dove tra l'altro sono stati ospiti addirittura persone che hanno avuto delle difficoltà importanti, menomazioni importanti, beh, siamo a Rizzoli, no? Ma allo stesso modo qui si cura l'anima, si cura l'emozione, e questo è altrettanto importante secondo me. Quindi consiglio vivamente La montagna incantata, vista Paradox, archivio Z per i prossimi appuntamenti. Quello che vi posso dire è che è strutturato in doppio appuntamento. Io per adesso ho avuto la possibilità di visionarne il primo, non mancherò anche per il secondo, vista la bellezza di quello che sto descrivendo e che sto consigliando alle ascoltatrici, agli ascoltatori del Breakfast Club all'interno dei magazine. Sì, perché tra poco si parte con i magazine e partiamo? Andiamo in gita? Sì, gita scolastica? Bah, quali interrogativi? Com'è cambiato? Quali contenuti? La famosa gita scolastica. Io non ne ricordo tante, ma poi vi spiegherò anche, ma più che altro vi porterò l'articolo sulla Domenica del Sole 24 Ore. Tra pochissimo, dopo questo brano, I Got. Somebody new, now I got a different view on what he had. scolastica, chi ne ha mai fatte? Non ricordo, beh, pochissime alle medie, una molto particolare a Collodi, il labirinto di Collodi mi ha particolarmente affascinato. Poi le gite più importanti, quelle delle superiori, beh, io già in una struttura sportiva cestistica importante non mi è mai stato concessa la possibilità di andare in gita scolastica. Non che ne facessi una malattia particolare di non andare in gita, anzi tutt'altro. Però insomma i racconti poi mi arrivavano, pensate che gita scolastica che di solito dovrebbe andare a corredo dell'aspetto didattico portando in esterno determinati contenuti. E infatti all'istituto psichiatrico Fioravanti, l'Ipsia, che poi è professionale, beh, pensate, uno si aspetta, non so, per quanto riguarda, c'erano congegnatori meccanici, riparatori d'auto, oppure come nel mio caso elettricisti, non so, la gita da qualche parte per trovare un aspetto anche tecnico. La gita al Fioravanti era a Benidorm, che possiamo definirla una riccione iberica, ecco, pensate, quindi molte volte come critica in geografie a pagina 10 la domenica del Sole 24 Ore, quello che è un contenuto di gita scolastica. Quindi bando alle esperienze personali, vediamo di questo rito di passaggio per gli studenti e soprattutto un momento di ricreazione con l'obiettivo più o meno dichiarato di svagarsi e socializzare, ma in realtà è un importante tappa formativa ancora alla ricerca di un nuovo modello. Eh sì, perché dopo la lunga pausa della pandemia ci si aspettava per la primavera 2024 una ripartenza in grande scala del cosiddetto viaggio di istruzione, chiamato più immediatamente gita. Così non è stato, ma anche sull'aspetto per i giovani adolescenti riguardo la pandemia, con queste immagini, no, di bambine bionde con le treccine, voglio studiare, vabbè che io non ho figli, ma se avessi una figlia che mi dice voglio studiare, io un po' di problemini insomma comincio a pormeli, perché insomma è un'età dove la ribellione, dove la voglia di tempo libero, dove certamente non c'è un richiamo più immediato, anzi sta appunto nel genitore, sta nell'insegnante a stimolare il più possibile l'importantissima attività didattica e scolastica. Però l'adolescente ha altro per la testa, su dai, restiamo umani, no? Il mio non è un invito, è semplicemente un percorso che è quanto mai giustificabile. Ciò non toglie che il momento della gita diventava, da quel che ho intuito, un momento anche per quanto riguarda alcuni amorazzi da gita, alcuni motivi di conoscenza personale, e, complicità tra amiche e amici e quant'altro. Insomma, non è più quel concetto didattico. Allora, l'articolo che viene riportato qui dal Sole 24 Ore, poi vi parlerò anche dei giovani in pandemia, che anche quello è un motivo di approfondimento. Alcuni hanno dichiarato in interviste, poi ovviamente silenziate se non in canali molto particolari, beh, alcuni hanno dichiarato: è stato il periodo in assoluto più bello della mia vita. Per forza, la possibilità magari di avere un giardino, la possibilità di avere i genitori che sono completamente asserviti per i ragazzi che non avevano lezione a scuola. Certo, è stato, come puoi definirlo per un giovane adolescente, il famoso periodo della pandemia, e chi più ne ha più ne metta. Poi tanto il computer c'è, quindi che vuoi di più? La sperimentazione gastronomica è stato uno dei motivi di approfondimento in famiglia più frequentato, e che vuoi, mangi anche bene, quindi dai. Oh, poi non era così per tutti, però per tante e tanti, insomma, queste sensazioni sono state provate. Vogliamo studiare, vogliamo andare a scuola, ma va là! E non sto posto certo, togliendo importanza all'aspetto didattico che a me è mancato tantissimo, me lo sono poi procurato da solo per quel che in maniera molto ima e restando ignorante sono riuscito a portare in maniera autodidatta e dialogando con persone che avevano motivo accademico di studio molto superiore. Comunque, restando alla gita scolastica, la soluzione del Sole 24 Ore, che anche qui è un po' criticabile, se vogliamo, no? Perché adesso ci sono questi nuovi strumenti, c'è il tablet, c'è il telefonino, ci sono le piattaforme dove dare reportage scolastici all'interno di questa divagazione all'esterno, ma restando attinente alla didattica, e quindi creare contenuti, portare immagini, scrivere reportage di viaggio che si trasformano solitamente in selfie, in fotografie di, giustamente tra l'altro, momenti di svago che prendono poi spazio all'interno delle note piattaforme social. Allora hanno detto no, portiamo dei progetti che hanno questo strumento o questi strumenti, ma restiamo attinenti a un aspetto didattico. Forse, non lo so in che modo, per alcuni, per me c'è una differenza sostanziale, che l'oggetto in questione non nasce come oggetto didattico, nasce come oggetto di svago fondamentalmente. Sì, utile, poi è stato strumentalizzato per legare le persone ulteriormente al mondo del lavoro, essere sempre reperibili, avere sempre la certezza che la persona sia impegnata, portarla completamente avvinghiata alla quotidianità. Certo, questo sicuramente, ma ti viene presentato in maniera accattivante come oggetto di svago. Un altro strumento è diverso, nasce come strumento didattico e come strumento per portare avanti un percorso di apprendimento. Quindi è un stravolgimento di contenuto tra oggetto e meta da raggiungere per il giovane. Non mi pare che il risultato per quanto riguarda l'attenzione tra i più giovani o tra gli adolescenti attraverso tablet o attraverso gli smartphone durante una gita, durante un percorso di apprendimento, siano così atti a questo percorso. Perché appunto, come ho già detto, per essere accattivanti nascono come oggetti di svago, nascono come oggetti per la propria vanità, per il proprio apparire. Non certamente poi magari li puoi trasformare, ma è sempre un aspetto secondario. Quindi così non si va più in gita scolastica per gli studenti e soprattutto un momento di ricreazione con l'obiettivo più o meno dichiarato di svagarsi e socializzare, ma in realtà è un'importante tappa formativa ancora alla ricerca. Come appunto ho dato una piccola critica, è ancora alla ricerca di un nuovo modello. You might fall. Stereo MCs, il primo successo, primi anni 90 per questo producer. Allora parliamo di altri strumenti, va, parliamo di libri e cambiamo, con tutto il rispetto per la Domenica del Sole 24 Ore, che lo trovo con motivi di riflessione veramente molto importanti, anzi ne consiglio la lettura come di tutti i magazine. A pagina 19 della lettura del Corriere della Sera, un approfondimento letterario sul linguaggio molto bello. C'era una volta l'archetipo, oggi c'è il trope. Cosa sono i tropi? La narrativa classica, la trama d'uso dei social sulla base di schemi che evocano modelli originari, l'amore non corrisposto, quello che all'inizio era odio, il legame con la madre. Ecco una mappa. È difficile, sapete, presentare questo articolo, che però mi ha affascinato perché è talmente immediato. Non so, ad esempio, il capolavoro, la storia d'amore più bella in assoluto che è stata scritta, che per me è Anna Karenina, sarebbe oggi forse un forbidden love, cioè un amore proibito. Ma procediamo. E Orgoglio e pregiudizio, il capostipite degli Hate to Love, la relazione tra Swan e Odette, un unrequited love, cioè questo amore respinto. Ovviamente il capitano Ahab incarna perfettamente il ruolo di Man versus Nature, così come Frodo, Harry Potter, Neo di Matrix sono dei prescelti, dei chosen one. Sono queste figure retoriche che vengono definiti tropi, appunto, sono quelli che danno poi una trasformazione nel linguaggio con questi termini. Si può tranquillamente usare il termine originale che ho appena tradotto, eh? A differenza di qualche tempo fa, oggi per trope intendiamo convenzioni narrative, etichette di meccanismi drammaturgici che vengono impiegate soprattutto sui social per descrivere o categorizzare nel dettaglio molte narrazioni destinate al pubblico più giovane. Sapete qual è il paradosso? Ne parlavo ieri, pensa, è una cosa veramente che mi lascia perplesso, cioè che per quanto riguarda l'uso di questi termini, i giovani, almeno che ho conosciuto io, ne hanno una facilità che addirittura io resto un po' turbato da questa semplicità nel trasformare termini inglesi ad uso tra social e altre modalità. Però, se devono tenere una conversazione in inglese, come si deve, si vergognano. Non è che non ne hanno le capacità, perché magari potrebbero anche provarci, ma non hanno motivo di tenere invece una conversazione in inglese strutturata. Del resto siamo il paese con l'approccio più difficoltoso con la lingua straniera. Però nel glossario immediato di queste definizioni, oh, sono bravissimi, eh? Anzi, resto anch'io così interrogativo, ma come? E poi, se c'è da fare conversazioni in inglese, provarci almeno. Io ho un pessimo inglese, però almeno ci provo con i miei strafalcioni, con i miei termini dialettali. Forse parlerei meglio il francese. Sapete l'attinenza tra il dialetto bolognese e il francese, eh? Però di francese, a parte la R dislessica, non ho altro. Ma per quanto riguarda invece l'inglese, che è qualcosina tra passato sportivo e percorso piccolo accademico, qualcosa ho assimilato. e ci si prova, ovviamente. No, in questo caso invece c'è più un'attenzione a questi termini immediati che trasformano, anzi che danno una, chiamiamola sintesi, dai, nella narrativa, nell'aspetto letterario, non dico portando qualcosa che già conosciamo, ma appunto perché adottare il termine forbidden love piuttosto che un amore impossibile nel caso di Anna Karenina. Non voglio fare a tutti i costi quello che non è esterofilo, ci mancherebbe, solamente la musica che metto, però insomma voglio dire, non esageriamo, su. Questo spazio di luce, spazio solare, intanto è arrivato in redazione anche il nostro Alfredo Pasquali, che sarà a curare la rassegna stampa come ogni giorno dalle 9:30. Saluto anche Anna Cesari, già in redazione, a breve saremo in conferenza stampa, ne daremo approfondimento di contenuto domani. Quello che invece sarà a breve, dopo un po' di musica curata da Sasumu Yokota. Beh, lui è un produttore nipponico già dal nome, scomparso qualche anno fa. Il brano che stiamo ascoltando è tratto da un disco per Leaf Record dal titolo Sakura. Rientreremo e presenteremo un nuovo magazine, un magazine mensile. Già lo stavo addocchiando da un po' e poi mi sono deciso, ok, proviamo questo numero. Il 15 giugno è uscito ufficialmente il sesto numero per il 2024 di Finzione, allegato culturale del domani. Beh, l'ho trovato, almeno per questa edizione, molto molto interessante e tra poco ne parleremo dopo la pubblicità. Thank you. Amanti della chitarra acustica, questo è un disco da non perdere. Conoscete il progetto Masada Perzali, curato da Don Zorn? Ecco, in questo caso, sotto la sua produzione, abbiamo un disco interamente composto da tre grandi chitarristi, che sono Bill Frisell, Marc Ribot e Tim Sparks, che i primi due li conosciamo bene, anche per presenza in diversi concerti e anche per aver dato approfondimento agli incontri in jazz live o in altri suoni. Tim Sparks è un altro chitarrista, sempre all'interno della scuderia Zadig, molto talentuoso. Quindi un disco che mantiene la linea Masada della ricerca, però con la specificità chitarristica. Chitarra acustica dà poi un'immagine così di aulico, di particolare, allo stesso tempo di immediato e di fruibile, ma portata con questa raffinatezza da raccolonna sonora all'arrivo di questo mensile che ha legato al domani a metà mese. Guardavo con attenzione anche solo la copertina, lo sfogliavo, mi interessava finché non sono arrivato. Dai, lo porto, anche se è un mensile, all'interno dei magazine. A pagina 22, tre articoli mi hanno colpito molto. Uno di Mattia Ferraresi, l'algoritmo mi inchioda alla pornografia della bontà. Attenzione, adesso è impossibile da questi cambiamenti per quanto riguarda la fruizione, l'intrattenimento con nuovi linguaggi, è impossibile restarne così al di fuori. Per cui quello che invece è motivo di approfondimento in questa specificità è riguardante gli influencer della bontà. Non so, mai capitato di vedere piccoli video in cui sconosciuti danno pacchi di banconote ai mendicanti, ricompensano piccoli gesti di gentilezza con cifre spropositate? Beh, giustamente Mattia Ferraresi dice: questi cinici trafficanti della gig economy dei buoni sentimenti arruolano disperati inconsapevoli per vendere a benestanti ebeti, come me, fa autocritica, l'emozione abissale che suscita un gesto di generosità. Alcuni svengono per la gratitudine, altri vanno in iperventilazione, altri ancora precipitano in un balbettante delirio di oh my god. Dicono che lo fanno per rinsaldare la fiducia nel genere umano. Grasse risate, ma l'umanità che emerge da questo delirio emotivo è fatta di feticisti che non riescono a smettere di guardare homeless che piangono. Guarda che allucinante, non so se è rassicurante tutto ciò, non so se può dare quale tipo di emozione. Tra l'altro mi pare che ci sia un precetto che dice: la carità è indispensabile, ma mi raccomando, l'anonimato in questo. Se questi lo mettono a disposizione di non so quante visualizzazioni, ma si va ben oltre, perché ovviamente c'è un ritorno, no? Lo sapete bene, dai, lo sapete anche meglio di me che siete più tecnologici. Ogni visualizzazione corrisponde a una pubblicità, a un ritorno, quindi diventa una sorta di samaritesimo social legato anche a un investimento, a un rientro economico. Cioè, tutto ciò fa abbastanza schifo, scusate il termine, ma mi permetto di aggiungere anche questo. E ne troviamo approfondimento a pagina 22 dei Finzioni, supplemento mensile del domani. L'influencer della bontà non si fa distrarre da queste considerazioni sentimentali. La tempesta emotiva che è in grado di generare in video vale più di ogni scrupolo morale. Ecco, anche perché questo è un aspetto decisivo del format, che ha a disposizione i migliori attori, perché certamente dietro c'è tutta una situazione di costruzione, no? Di complicità, se vogliamo, chi gira il video, chi fa la comparsa, chi struttura al meglio questa donazione spropositata, voglio dire, che indubbiamente, più che ridare fiducia nell'umanità, le critiche che porta anche l'articolo in Finzioni del domani è indubbiamente piuttosto un gesto che, altro che da samaritano, altro che buon samaritano, direi che proprio i contenuti sono tutt'altro in questo caso. L'articolo di Mattia Ferraresi a pagina 22, dico, mi ha colpito molto per l'aspetto di critica alla situazione, ma la critica va al fruitore di questo, perché se indubbiamente non vi è la fruizione, chiaramente anche questa sorta di beneficiario e vittima diventa qualcosa che non ha senso di esistere. Ma purtroppo, a quanto pare, c'è una grande attenzione per tutto ciò e del resto, no? Benvenuto al digitale, benvenuta alla rete, benvenuti a questi nuovi media. E tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare. Bello questo mix tra l'Electronic Glitch di Neugia e questo brano Nico Fidenco 1961. Nella nebbia più legata ad un granello di sabbia. Ma perché hai fatto ciò? Cosa c'entra? A parte che mi piacciono questi ossimori, comunque, e a parte che è un brano meraviglioso, comunque. Bando a tutto ciò, perché? Perché è stato 1961, è stato ufficialmente il primo tormentone d'estate. Sì, c'è un libro dei tormentoni, questo è stato ufficialmente definito il primo tormentone estivo. E mai più freddo sentirà. Non ci tormentate però, caspita, questo è una qualità non indifferente. Se pensiamo, non vi propongo il tormentone 2023 perché è qualcosa di ributtante, ma detto ciò non saremo noi a scegliere i tormentoni, ma saranno loro a scegliere noi. Giovanni Robertini, pagina 15, molto bello anche questo articolo. Non li abbiamo visti arrivare, hanno caricato in anticipo i tormentoni estivi su varie piattaforme un mese prima di quando ce li aspettavamo. A tradimento. Però il primo tormentone certificato della storia è del 1961, è legata a un granello di sabbia e l'ho voluto proporre, di Nico Fidenco. L'anno dopo Edoardo Vianello incide con pinne, fucile ed occhiali e Ennio Morricone la arrangia in studio con una bagnarola, pensate, il famoso splash, per ottenere il suono del tuffo. Sul retro della copertina del 45 giri c'è Sapore di sale, che secondo me è... voglio tenere, tenere, legata con un raggio di sole. Che un colpevole quest'anno hanno deciso che tocca l'ombra andare. La nebbia svanì. Passi pomeriggi così così, tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid, vuoi vincere. Questo lerciume è quello del 2023. Al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo... Fate voi le vostre proporzioni. Come tutti gli italiani all'estero. Lo tolgo subito, Potero. Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente. Povero Battisti. Insomma, questo invece è stato il tormentone del 2023. E io chiudo con una sigla che è questa. Mamma mia, a proposito di tutti i tempi, ci rifacciamo le orecchie, ma anche gli occhi, ma le orecchie. Perché è un anniversario dedicato all'immenso Henry Mancini. Pagina 14 di Alias, edizione del sabato del Manifesto, Henry Mancini, infallibile Easy. 30 anni fa moriva l'autore del tema La Pantera Rosa, capolavoro cinepop. E con queste note vi do appuntamento a domani, ringraziandovi per l'attenzione, lasciandovi all'edipe enciclopedico, poi Liberi Dentro, rassegna stampa, curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mi raccomando, puntuali alle ore 7 con il Breakfast Club. Vi aspetto domani. Ciao a tutte, ciao a tutti.